capisci, rispondi sempre sì con educazione, fai il bravo bambino e non lamentarti mai, mai, mai, mai, mai, non lamentarti mai. Solo rigare dritto, ma chi è che ha detto che sei onesto riceverai un premio? L'unica pacca sulla spalla che riceverai sarà la tua quando soffrirai. Ma chi è che ha detto che è meglio obbedire e stare zitto? Lo ha detto chi comanda il circo, il gigante buono che ti dà mangiare e con i tuoi soldi si compra la felicità. Se rigare dritto non paga, che senso ha stare zitto e subire per vivere solo di debiti e guai? Ai ai ai ai. Fai la persona per bene e obbedisci. Vestiti elegante e mangia con educazione, fai il bravo bambino e non protestare mai, mai, mai, mai, mai, non protestare mai. Riceverai un premio, l'unica pacca sulla spalla che riceverai sarà la tua quando soffrirai. Ma chi è che ha detto che è meglio obbedire e stare zitto? Lo ha detto chi comanda il circo, il gigante buono che ti dà mangiare e con i tuoi soldi si compra la felicità. Se rigare dritto non paga, che senso ha stare zitto e subire per vivere solo di debiti e guai? Ai ai ai ai. Soffrirai, ma chi è che ha detto?